come sempre ogni volta che partecipo a incontri del genere mi sento sempre più trastornato, colpito, però ricaricato, rinvigorito, ecco. Certo, mi verrebbe da dire che stasera dovremmo denunciare qui la professoressa Benetti per istigazione alla violenza, quando ci dice che papà, perché non litighi più con tuo figlio? Quindi dobbiamo litigare, cioè, quindi è un'istigazione, però cogliamo il lato giusto, del significato giusto della considerazione. La considerazione è quella, io parlo un po' delle esperienze chiaramente che posso, che vivo, che sono quelle di, ho tre figli, e praticamente uno quest'anno ha fatto la maturità e si è iscritto all'università, un altro è quarto anno, un'altra è seconda, oggi ha avuto, è stata qui ad ascoltarla, a sentirla. Ebbene, con ognuno dei tre figli un rapporto completamente diverso. Quindi, quando lei diceva poco fa, papà, perché non litighi più con tuo figlio? Per esempio, io un'esperienza del genere l'ho vissuta col grande, che è un tipo, se lei lo vedesse, capelli lunghi, cosa, un pochettino qua, parecchi lo conoscono, quindi... e allora lì litigare per cercare di voler non abdicare al ruolo di genitore e quindi contemporaneamente non essere fratello del figlio, come lei diceva, dice, io non devo essere fratello, anche perché anagraficamente risulta papà, non risulta fratello. Quindi, e allora nel cercare di mantenere questa identità, e allora siamo arrivati alle lotte, al litigio, dopodiché ormai ha fatto la sua maturità, ho tirato un po' il freno a mano, dico ferma, insomma, cerchiamo di tarare un pochettino l'atteggiamento. Però la considerazione che volevo fare è che non è con tutti uguale. E allora, dico, il ruolo del genitore dobbiamo farlo e farlo fino in fondo, cioè cercare di non trascurare mai quelli che sono i punti fermi, i punti fissi e quindi i riferimenti non negoziabili di cui parlava lei poco fa. Però tararli per ognuno. Perché lo stesso atteggiamento io non, a volte non lo uso con gli altri figli. Perché l'altro figlio si approccia nel rapporto padre-figlio, genitore-figlio, in maniera diversa. In un modo o nell'altro, dico. Quindi, quello che mi sento di dire a conclusione, non voglio rubare tempo agli altri, è giusto che si lasci ad ognuno la propria, cioè, comportarsi con ognuno dei figli rispettando la propria individualità, il proprio carattere. Quindi, se è necessario, litigare. Se non è necessario, no. Io a volte l'ho fatto. Grazie. Intanto voglio dire che il titolo del libro l'ha scritto Antonio Polito, non l'ho scritto io. Io voglio dire che, attenzione, che il figlio con cui non si litiga, a volte, è il figlio che poi desta sorprese a distanza nel tempo. Perché ci sono anche ragazzi che sono bravissimi a scivolare nelle maglie delle questioni e a evitare molto abilmente tutte quelle che sono le difficoltà di confronto. Io penso che tra tutti i figli sicuramente ce n'è uno a cui i fratelli dicono «diglielo tu a papà che glielo sai dire», no? Tra tutti i figli c'è un mediatore per eccellenza che è quello che cerca di portare a casa la propria battaglia sfruttando le debolezze e la conoscenza che riesce a avere del papà. Per dire, se glielo dici così ti dice di no, se glielo dice così ti dice di sì. Non sempre in questi modelli che potrebbe anche definire un itinerario politico degno della massima attenzione, però non sempre questi sono quelli che in realtà formano carattere, formano per così dire adattabilità e flessibilità al sistema. Viceversa ci può essere invece a volte uno scontro diretto, dal quale emergono principi chiari e netti. Io non so che differenza, sto un po' scherzando, no, sui figli. Anche noi eravamo quattro sorelle e mia madre soleva dire questa cosa. Mia mamma era una maestra elementare. Diceva: io prima di sposarmi ero incerta tra quattro metodi educativi. Era una persona che aveva studiato alle magistrali, pedagogia, queste cose così. Dopo mi sono sposata, ho avuto quattro figli e non ho più avuto nessun metodo educativo. Cioè, nel senso che la linea gliela dettavano i figli, ognuno di loro con la sua specificità. Il punto vero è: questo figlio sta dando tutto quello che può dare, quest'altro figlio sta dando tutto quello che può dare, ed è evidente che i figli daranno quello che possono dare in modo diverso, anche perché peraltro hanno anche talenti diversi e parte dei talenti è anche il carattere e lo stile. Ed è giusto che un padre, diciamo, tra virgolette, si confronti con questi figli, però io nutro veramente dei dubbi se lo scontro non c'è mai. Ve lo dico per rassicurarvi, non per inquietarvi, perché è strano, cioè un figlio che non, adesso diciamo una cattiveria, tanto per essere così un po' incarato, un figlio che non si scontra mai con mamma sua, crea dei problemi enormi alla sua ragazza, glieli crea dopo, capito? Perché, scusa, ma tu a tua mamma, no? No, dico. Allora, la capacità di modellare un'identità che sappia convivere con la diversità e che sappia anche esprimere il proprio punto di vista, accettando di stare dall'altra parte della barricata, è un fatto di libertà e di maturità. Il ragazzo che non ti dice mai di no, perché in qualche modo ti compiace sempre, a mio avviso, a me mi porrebbe qualche problema. Quando i miei collaboratori mi dicono sempre di sì, io mi innervosisco. Dico, perché per dirmi di sì mi basto io mi dico sempre di sì, voglio dire, mi tengo su, insomma, in qualche modo, no? Se ti passo uno stipendio è perché tu mi aiuti a migliorare quello che io sto facendo, e per migliorarlo mi devi anche dire, in un certo senso, quello che non funziona. È in questa reciprocità del fatto che io ti dico che cosa secondo me, lo dico con un atteggiamento di umiltà paziente, dico secondo me questo, poi dopo tu fai come vuoi, però io te lo devo dire, non posso rinunciare a dirtelo. Ci sono delle situazioni anche abbastanza importanti in cui questo si esprime in genitori. Adesso pensate a genitori che davanti a delle scelte importanti dei figli non le condividono. Io ho tanti amici della mia generazione, evidentemente, che davanti al fatto che il figlio vada a convivere è una situazione che non condividono. Dopodiché, però, una volta che gliel'hai detto che non la condividi, il tuo maggiore interesse è che quella convivenza funzioni. Non so come dire, non è tuo interesse stare lì tutti i giorni, come dire, a smontare quella cosa, non so se si capisce. Dopodiché, allora cosa faccio? Intanto ti aiuto a mettere su casa, se posso. Se posso, però se posso ti aiuto. Intanto ti aiuto a capire come si costruisce una convivenza che io voglio che duri nel tempo e che non che sia una convivenza che magari nel primo momento in cui uno o l'altro cambia un'idea, perché di questo poi si tratta, si riappropria della propria libertà senza nemmeno aver provato a far funzionare bene quella convivenza. Fermo restando il fatto che il mio desiderio maggiore è che tu vada, ti sposi e magari ti sposi pure in chiesa. Però io te lo dico e tu lo sai, ma poi nello gestire la situazione io assumo la tua proposta. E nell'assumere la tua proposta cerco di collaborare a un tuo progetto nella speranza che poi il tuo progetto converga verso il mio progetto, ma non perché è il mio, ma perché io penso che sia il bene per te. Non so se è chiaro. Quindi ci deve essere questa chiarezza in cui ti dico esattamente quello che mi sembra. C'è un mio amico carissimo che è entrato adesso, vuoi venire qui avanti? Perché sicuramente è preso da un raptus di timidezza. E, no, scusa, è tua moglie? Falla venire, scusa, stiamo parlando proprio di questo, mica che tu vieni in prima fila e lei la lasci dietro in fondo. Allora, quello che voglio dire in altri termini, che assecondare nella formazione i figli significa fare chiarezza su quello e significa fare trasparenza su quello che tu ritieni che sia giusto, anche quando sai perfettamente che lui non lo ritiene giusto, ma tu non puoi rinunciare a porre la tua posizione. Dopodiché rispetterai la sua, ovviamente, cercando di pretendere rispetto per la tua. Ma non si educa nell'ambiguità. Non si educa in un contesto gommoso. Non si educa in un contesto liquido. Si galleggia, ma non si educa. Che vorrei lei chiarisse è un po' sì, questa visione che mi sembra un po' così, il fatalismo. Devo ingoiarlo oppure no, posso... no, basta che ci parli di scelta dello scontro tra per raggiungere l'efficacia educativa. Dico, non è pensabile, anche realistico, dico, pensare anche a una terza via, che è quella di perseguire come, come dire, stella polare da parte dell'educatore l'obiettivo di fornire, come dire, un modello di vita, di comportamento credibile e attraente. Perché se questo accade, dico, si potrebbe anche evitare, per quanto lo scontro, il conflitto chiaramente fa parte di alcuni fisiologico di alcuni momenti della crescita, però ecco, considerarlo, come dire, un epilogo inevitabile, non vorrei che ci portasse su una strada, come dire, che non è quella preferenziale. Io devo, come papà, capisco che, come dire, probabilmente la maniera migliore per stimolare nei miei figli certe scelte, certe qualità, è quella di, come dire, essere... fornire un esempio di scelte comportamentali quotidiane che a loro risulti, come dire, piacevole, per far sì che sia anche credibile quello che poi insegno a parole. Questa è la vera utopia dell'educatore. Perché è proprio quella di pensare: io sono qua, scusa, guarda come sono buono, guarda come sono bravo. Guarda come mi sforzo tutti i giorni io di essere così, e quindi necessariamente tu sarai buono, sarai bravo e sarai così. Non è così che funziona. Tuo figlio ti guarderà, imparerà una serie di cose, ma verranno, ed è fisiologico, ed è necessario, ed è buono e giusto che avvenga, dovrà fare i conti. Primo, perché non ci sarà più solo babbo suo, ci saranno anche i suoi amici, ci saranno anche modelli comportamentali diversi. Ci sarà comunque quella cosa che tu sei riuscito a dominare così bene, da come lo descrivi, che è la bestia nera che ognuno di noi si porta dentro di sé. E la bestia nera che ognuno di noi si porta dentro di sé è: so qual è il bene, ma per bacco mi secca, preferisco fare una cosa diversa, preferisco assecondare un istinto diverso. Perché io immagino che se tu sei sempre così buono, bravo, convincente, piacevole, tollerante, adattante a tuo figlio, tu abbia un dominio totale assoluto del tuo carattere, della tua ira, delle tue... Penso che tu abbia vinto molte battaglie, ma forse tuo figlio non le ha ancora vinte. No, sì, certo. No, no, sì, sì. No, no, ma quello che... Sì, comunque... Comunque, quello che tu dici è... assolutamente d'accordo con te su questa necessità che uno non faccia finta di essere migliore, cioè non bleffi, ma che davvero si sforzi di essere migliore, che è la cifra della fatica dell'educare, ma è anche la cifra della fatica della nostra coerenza personale. Sono totalmente d'accordo con te su questo, no? Però ti voglio dire che arriva il momento in cui le scelte che lui pone, no, se sono le sue scelte e non è un clone tuo, a un certo punto sono scelte che individueranno una forbice. Quando io dico litigare con il figlio, è evidente che non è che mi immagino un rapporto di conflittualità permanente, assolutamente no. Però mi immagino che un rapporto in cui non ci sono dei margini di strutturazione identitaria che pone anche il senso della differenza, a me personalmente qualche problema me lo pongono. Però poi io ti auguro a te di avere un itinerario così... Però il mio augurio, proprio perché te lo dico con grande simpatia, è non ti preoccupare se non sarà sempre possibile. Abbi pazienza, che poi torna.